Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Ad aprile il tasso di disoccupazione nell'Eurozona è stato del 12,2%, in rialzo rispetto al 12,1% di marzo. Il nuovo record dal 1995. Nell'UE complessivamente trattata, dato stabile all'11%, ma rispetto a marzo il numero complessivo dei disoccupati è aumentato di 104.000 unità. Dal 1 giugno entra in vigore una nuova lista di additivi approvati a livello di Unione Europea che comprende solo gli additivi giudicati sicuri sulla base di una valutazione scientifica. Naturalmente additivi alimentari che vengono elencati in una vera e propria classificazione che prevede una lista completa, questo per la prima volta. Allora, il sito web, il sito internet dove trovare tutto l'elenco è complesso, allora vi rimando sul sito di radio24.it dove potete accedere alla lista completa dell'Unione Europea. Oltre 12 milioni di euro per trovare i geni del dolore, applicare le nanotecnologie alla chirurgia del più grave dei tumori cerebrali, il glioblastoma, e sviluppare la conoscenza delle epilessie. Questo è l'importo e la destinazione dell'importante finanziamento pluriennale che l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano riceverà dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato con Ferdinando Corneglio, direttore scientifico del Besta. Diciamo che l'Europa ha accettato la proposta di un piano operativo per 5 anni che investe circa 10 milioni di euro. Deve considerare che saranno 9 i centri europei coinvolti in questo studio. Non si fa altro che parlare anche a livello europeo di tagli al budget, di difficoltà economiche. Come ci si assicura il finanziamento di questo livello? Ci si assicura con la qualità. Capisci, noi abbiamo messo 3 anni per presentare questi progetti. Questi progetti devono essere presentati a una commissione con la qualità della proposta, la super qualità del proponente. La Commissione europea ci mette molto tempo ed è estremamente severa nella valutazione di tutti questi aspetti. Le assicuro che è un must non indifferente quello di partecipare a questi progetti, ma è anche un impegno veramente importante. Se noi non ci abituiamo a non essere solo chiacchieroni, ma a essere veramente professionali anche nel partecipare a queste call, credo che sarà una lezione per tutti. Ferdinando Corneglio, lo ricordo, direttore scientifico del Besta. E a proposito di fumo, di cui abbiamo parlato anche GR24, www.exsmoker.eu, dalla Commissione europea dunque una piattaforma digitale per rinunciare al fumo. Paola Testori Coggi, direttore generale salute e consumatori della Commissione europea. Soprattutto abbiamo usato i nuovi strumenti digitali, quindi c'è una piattaforma online che aiuta i fumatori a smettere, anche chi non vuole smettere può registrarsi, con questo programma viene accompagnato e viene consigliato per smettere di fumare e abbiamo un grande successo, perché pensate che in Europa oggi ci sono quasi 400.000 persone, cioè fumatori, che si sono registrati, di cui circa un terzo dopo 3 mesi ha smesso di fumare. E in Italia i fumatori registrati sono 23.000. Sono Federico Taddia e oggi vi presento Freccia d'Europa, una camminata per la rinascita d'Europa da Mantova a Strasburgo, sede del Parlamento europeo. Ideata dall'associazione Il Primo Amore, con il sostegno della rete dei piccoli comuni europei, l'iniziativa è aperta a tutti. La partenza è prevista proprio per oggi da Mantova, luogo in cui sono stati ritrovati anni fa gli scheletri di 2 ragazzi abbracciati, resti di un'Europa preistorica che già conosceva i concetti di amore, amicizia e fratellanza. L'idea è quella di dare forza a questi concetti camminando con chiunque si voglia unire lungo il percorso. Per conoscere le tappe, saperne di più sul progetto e aggregarsi ai moderni pellegrini, il sito è camminacammina.wordpress.com. E come sempre ritrovate tutto su radio24.it. Con questo noi concludiamo la settimana di Europa 24, che naturalmente ci ritrova qui lunedì a partire dalle 13.15. Buon fine settimana! Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.